Capitolo 170. Le peregrinazioni di Odisseo. Odisseo salpò da Troia, ben sapendo che avrebbe dovuto vagare per altri 10 anni prima di raggiungere Itaca. Sbarcò a Ismaro Ciconia e la prese d'assalto. Nel saccheggio che seguì fu risparmiato soltanto Marone, sacerdote di Apollo, che in segno di gratitudine donò a Odisseo alcune giare di vino dolce. Ma i ciconi che abitavano nell'interno videro densi globi di fumo innalzarsi sopra la città, e assaliti i greci che bevevano il vino sulla riva del mare, li misero in fuga disordinata. Quando Odisseo riuscì infine a radunare e imbarcare i suoi uomini che avevano subito gravi perdite, un vento furioso di nord-est spinse le navi al di là del mare Egeo verso Citera. Il quarto giorno, approfittando di una temporanea pausa della tempesta, Odisseo tentò di doppiare il capo Malea e di spingersi a nord fino a Itaca, ma il vento contrario si alzò più forte che mai. Dopo 9 giorni di pene e di tormenti, si profilò all'orizzonte il promontorio libico dove vivono i mangiatori di loto. Ora il loto è un frutto senza nocciolo, color zafferano e grande pressappoco come una fava che cresce in grappoli assai belli a vedersi, ma chi ne assaggia perde il ricordo della terra natale. Alcuni viaggiatori tuttavia lo descrivono come una sorta di mela dalla quale si estrae un sidro molto forte. Odisseo sbarcò per far provvista d'acqua e mandò avanti in esplorazione 3 uomini che mangiarono il loto offerto loro dagli indigeni e si scordarono completamente del compito a essi affidato. Impensierito per quel ritardo, Odisseo andò in cerca dei 3 marinai e, benché si vedesse offrire i magici frutti, li rifiutò. Poi, riportati sulla nave i disertori, li mise ai ferri e alzò le vele in gran fretta. Giunse così a un'isola fertile e boscosa che pareva abitata soltanto da innumerevoli capre selvatiche e ne uccise parecchie per banchettare con le loro carni. Gli equipaggi sbarcarono al completo e a una sola nave fu affidato il compito di compiere in esplorazione il periplo dell'isola. Quella terra apparteneva, ahimè, ai barbari ciclopi, così chiamati per via dell'unico grande occhio rotondo che baluginava nel mezzo della loro fronte. Ormai scordata l'arte degli avi loro, che lavoravano come fabbri per Zeus, erano pastori senza legge né navi né moneta o mercati. Vivevano corrucciati, l'uno lontano dall'altro, in caverne che si allungavano nei fianchi di montagne rocciose. Scorto da lontano l'ingresso di una di tali caverne, che si apriva alto e ombreggiato da piante di lauro al di là di uno steccato, Odisseo e i suoi compagni avanzarono, ignari di trovarsi nella proprietà di Polifemo, gigantesco figlio di Posidone e della ninfa Toosa, che era abituato a nutrirsi di carne umana. I greci sedettero allegramente attorno al focolare, sgozzarono e arrostirono alcuni capretti trovati nella grotta, si servirono dei formaggi allineati nei canestri lungo le pareti e banchettarono in letizia. Verso sera apparve Polifemo. Egli spinse il suo gregge nella caverna e ne chiuse l'ingresso con una pietra così pesante che 20 paia di buoi sarebbero riusciti a stento a smuoverla. Poi, senza rendersi conto che aveva ospiti, sedette per mungere pecore e capre. Infine alzò l'occhio dal mastello e vide Odisseo e i suoi compagni riuniti attorno al focolare. Chiese irosamente che cosa mai facessero nella caverna. Odisseo rispose: «Mostro gentile, noi siamo greci e torniamo alle nostre case dopo il saccheggio di Troia. Rammentati, prego, ciò che devi agli dèi e accoglili ospitalmente». Per tutta risposta Polifemo sbuffò, agguantò 2 marinai per i piedi, fracassò il loro cranio al suolo e ne divorò le carni crude, spolpando le ossa come un leone montano. Odisseo avrebbe voluto vendicare i suoi compagni prima dell'alba, ma non si arrischiò, perché soltanto Polifemo aveva la forza necessaria per smuovere il masso di roccia dall'ingresso della caverna. Trascorse dunque la notte col capo stretto tra le mani elaborando un piano di fuga, mentre Polifemo russava in modo spaventoso. Come prima colazione il mostro uccise e divorò altri 2 marinai, poi spinse dinanzi a sé il gregge e richiuse l'ingresso della caverna con il masso. Ma Odisseo si impadronì di una trave di olivo ancor verde, ne appuntì una estremità, indurendola al calore del fuoco e poi la nascose sotto un mucchio di sterco. Quella sera il ciclope ritornò e mangiò altri 2 dei 12 marinai. Ma tosto Odisseo gli offrì cortesemente una tazza del forte vino donatogli da Marone di Ismaro Ciconia. Per fortuna Odisseo ne aveva portato con sé un otre pieno. Polifemo bevve avidamente e ne chiese una seconda coppa, poiché in vita sua non aveva mai assaggiato niente di più inebriante del siero di latte, e accondiscese a chiedere il nome di Odisseo. «Mi chiamo Udeis», rispose Odisseo, «o almeno questo è il soprannome che tutti mi danno. Ora Udeis significa nessuno. Ti mangerò per ultimo, caro nessuno», disse Polifemo. Non appena il ciclope cadde nel profondo sonno degli ubriachi, poiché il vino non era stato allungato con acqua, Odisseo e i suoi compagni arroventarono la punta della picca nelle braci del focolare. Poi la conficcarono nell'unico occhio di Polifemo, e mentre i suoi compagni la premevano verso il basso, Odisseo la fece girare così come gira un succhiello nel legno di una nave. La carne bruciata sibilò e Polifemo lanciò un urlo orribile che indusse tutti i suoi compagni ad accorrere da vicino e da lontano per vedere che cosa mai accadeva. «Sono cieco e il mio dolore è spaventoso!» gridava Polifemo. «Tutta colpa di Udeis!» «Povero disgraziato!» replicarono gli altri ciclopi. «Se, come tu dici, la colpa è di nessuno, di certo la febbre ti fa delirare. Prega il padre tuo Posidone affinché ti ridoni la salute e smettila di strillare a questo modo». Se ne andarono brontolando e Polifemo si avvicinò a tastoni all'ingresso della caverna, spostò la pietra e, le mani protese dinanzi a sé, attese ansioso di poter agguantare i greci mentre cercavano di fuggire. Ma Odisseo legò ciascuno dei suoi compagni sotto il ventre di un ariete con dei vimini e ne assicurò le estremità ad altri due montoni, distribuendo uniformemente il peso, in modo che il montone sotto il quale stava l'uomo si trovasse nel mezzo e gli altri due ai lati. Per sé scelse un enorme ariete. Il capo del gregge si aggrappò al pelo del suo ventre con le dita dei piedi e delle mani. All'alba Polifemo spinse il gregge al pascolo, accarezzando il dorso di ogni bestia per assicurarsi che non vi fosse un uomo sopra a cavalcioni, e indugiò a parlare con voce mesta all'ariete che portava Odisseo. «Perché, caro, non guidi il gregge come sei solito fare? Forse ti impietosisce la mia sventura?» Ma alla fine lo fece uscire con gli altri. Così Odisseo riuscì a liberare sé e i suoi compagni e a spingere l'intero gregge verso la nave. Subito la misero in mare, e non appena gli uomini, dato di piglio ai remi, cominciarono a vogare, Odisseo non poté trattenersi dal lanciare un ironico saluto al ciclope. Per tutta risposta Polifemo scagliò in acqua un masso che cadde a poca distanza dalla prua della nave e sollevò un'onda che per poco non la respinse sulla spiaggia. Odisseo rise e gridò: «Se qualcuno ti chiederà chi ti ha accecato, rispondi che non fu Udeis, ma Odisseo d'Itaca». Il furibondo ciclope pregò allora Posidone: «Padre, fa sì che il mio nemico Odisseo, se mai ritorni in patria, vi giunga tardi e a stento su nave altrui, dopo aver perso tutti i suoi compagni, e nuove sciagure trovi oltre la soglia della sua casa». Poi scagliò un secondo masso che cadde dietro la nave e la spinse veloce verso la spiaggia dove i compagni di Odisseo lo attendevano ansiosi. Ma Posidone accolse la supplica di Polifemo e promise di vendicarlo. Odisseo puntò la prua verso nord e raggiunse l'isola di Eolo, custode dei venti, che lo ospitò regalmente per un mese intero, e l'ultimo giorno gli offrì un otre zeppo di venti, spiegandogli che fino a quando la bocca ne fosse rimasta chiusa e stretta da un filo d'argento, tutto sarebbe andato bene. Quell'otre conteneva tutti i venti, all'infuori del dolce vento d'occidente, che avrebbe spinto direttamente la flotta attraverso lo Ionio fino a Itaca. Ma Odisseo poteva liberare gli altri venti a uno se per una qualche ragione avesse voluto modificare la rotta, e già si poteva scorgere il fumo che si alzava dai camini del palazzo di Odisseo in Itaca, allorché egli cadde addormentato, sopraffatto dalla stanchezza. I suoi uomini, che attendevano con ansia quel momento, aprirono l'otre dei venti, convinti che contenesse vino, e subito i venti tutti assieme soffiarono, galoppando verso la loro dimora e spingendo la nave. Così Odisseo si ritrovò nell'isola Eolia. Con profonde scuse implorò l'aiuto di Eolo, ma gli fu risposto che desse di piglio ai remi. Nemmeno un soffio del vento dell'ovest gli sarebbe stato concesso. «Non posso aiutare un uomo che è inviso agli dèi!» gridò Eolo, sbattendogli la porta in faccia. Dopo 7 giorni di navigazione, Odisseo giunse alla terra dei Lestrigoni, governati da Re Lamo, e taluni dicono che tale terra si trovasse nella parte nord-occidentale della Sicilia, altri nei pressi di Formia, in Italia, dove la nobile gente di Lamia si vanta di discendere da Re Lamo. E la cosa pare credibile, perché chi si vanterebbe di discendere dai cannibali se ciò non fosse noto a tutti? Nella terra dei Lestrigoni il giorno e la notte si susseguono così rapidamente che i pastori, i quali riconducono le gregge al chiuso al calar del sole, danno la voce a quelli che si preparano a uscire all'alba. I capitani della flotta di Odisseo entrarono a vele spiegate nel porto di Telepilo, che è chiuso tutt'attorno da rocce scoscese, e spinsero le navi in secco presso un sentiero che serpeggiava su per la vallata. Odisseo, più cauto dei suoi compagni, legò la propria nave a un albero all'imboccatura del porto e mandò 3 uomini in ricognizione nell'interno dell'isola. Essi seguirono il sentiero finché si imbatterono in una fanciulla che attingeva acqua a una fonte. Era la figlia di Antifate, capitano dei Lestrigoni, e li guidò alla sua dimora. Ma colà essi furono assaliti da un'orda di selvaggi che, afferrato uno di essi, lo uccisero per cucinarlo. Gli altri 2 fuggirono a gambe levate e i selvaggi, anziché inseguirli, afferrarono grosse pietre dai fianchi dei monti e le scagliarono sulle navi in secco, fracassandole prima che potessero riprendere il mare. Poi, calati sulla riva, fecero strage tra gli equipaggi, divorando chiunque capitasse loro tra le mani. Odisseo riuscì a fuggire recidendo con un colpo di spada la gomena che tratteneva la sua nave e incitò i compagni a vogare se era loro cara la vita. Con l'unica nave rimasta si diresse verso est e dopo un lungo viaggio raggiunse Ea, l'isola dell'alba, dove regnava la dea Circe, figlia di Elio e di Persa, e dunque sorella di Eete, il feroce re della Colchide. Circe era maga esperta in ogni sorta di incantesimi, ma nemica del genere umano. Quando si estrasse a sorte chi dovesse rimanere di guardia sulla nave e chi dovesse scendere a terra, toccò a Euriloco di esplorare l'isola con altri 22 compagni. L'isola era ricca di querce e di altri alberi d'alto fusto, e dopo aver vagato tra i boschi, gli uomini giunsero infine al palazzo di Circe, che sorgeva in un'ampia radura al centro dell'isola. Lupi e leoni erravano lì attorno, ma anziché assalire Euriloco e i suoi compagni, affettuosamente li lambirono con la lingua, ritti sulle gambe posteriori. Li si sarebbe detti esseri umani, e tali erano infatti, trasformati in bestie dagli incantesimi di Circe. Circe sedeva nella sala del palazzo e cantava, intenta al suo telaio. Quando udì il richiamo di Euriloco, si affacciò sulla soglia e con un sorriso invitò tutti a cenare alla sua tavola. Gli uomini accettarono con piacere e il solo Euriloco, insospettito, indugiò all'esterno, spiando dalle finestre. La dea posò sulla mensa formaggio, orzo, miele e vino, ma i cibi contenevano farmaci maligni e non appena i marinai ebbero mangiato i primi bocconi, la dea li percosse con una verga e li trasformò in maiali. Con maligno sorriso li spinse allora nel porcile, gettò loro una manciata di ghiande e di corniole e li lasciò, richiudendo la porta. Euriloco ritornò alla nave piangendo e narrò ogni cosa a Odisseo, che sguainò la spada e partì per recare aiuto agli sventurati compagni, pur non avendo stabilito un piano ben chiaro nella sua testa. Con grande sorpresa incontrò il dio Ermete, che lo salutò cortesemente e gli offrì un talismano per rendere inefficaci gli incantesimi di Circe, un bianco fiore profumato e dalla nera radice, chiamato Moli, che gli dei soltanto possono riconoscere e raccogliere. Odisseo accettò grato il dono e, proseguendo il cammino, fu infine accolto da Circe. Quando egli ebbe mangiato il cibo affatturato, la maga gli batté la verga sulla spalla e gli ordinò: «Vai dunque a raggiungere i tuoi compagni». Ma poiché in segreto aveva fiutato il magico fiore, Odisseo non subì la metamorfosi e subito balzò in piedi, sguainando la spada. Circe cadde ai suoi piedi piangendo. «Risparmiami», gridò, «e dividerai il mio letto e regnerai sull'isola al mio fianco». Ben sapendo che le maghe possono indebolire e a poco uccidere i loro amanti, Odisseo volle che Circe giurasse solennemente di non tramare nuovi inganni. Circe giurò su tutti gli dèi e, dopo aver preparato per Ulisse un bagno tiepido, offertogli vino in coppe dorate e una cena squisita, si preparò a trascorrere con lui la notte in un letto dalle coltri purpuree. Tuttavia Odisseo si rifiutò di accettare le sue amorose carezze finché ella non avesse liberato i suoi compagni e tutti gli altri marinai tramutati in belve prima di loro. Quando ciò fu fatto, ben volentieri Odisseo rimase in Eea finché Circe gli ebbe partorito 3 figli, Agrio, Latino e Telegono. Venne il giorno in cui Odisseo chiese di ripartire e Circe gli concesse di lasciarla. Prima però doveva scendere nel Tartaro e interrogare Tiresia il veggente, che avrebbe profetizzato ciò che lo attendeva in Itaca, se mai vi fosse giunto, e negli anni seguenti. «Lascia che il vento del nord gonfi le tue vele», disse Circe, «finché giungerai al fiume Oceano e al sacro bosco di Persefone, denso di bianchi pioppi e di antichi salici. Là dove il Flegetonte e il Cocito confluiscono nell'Acheronte, scava una fossa e sacrifica un giovane ariete e una pecora nera, che io stessa ti fornirò, a Ade e a Persefone. Lascia che il sangue scorra nella fossa, e mentre attendi l'arrivo di Tiresia, tieni lontane con la tua spada tutte le altre ombre. Al solo Tiresia permetterai di bere quanto voglia e ascolterai con attenzione i suoi consigli». Odisseo costrinse i suoi uomini a imbarcarsi, poiché a malincuore essi lasciavano l'isola di Ea per recarsi nella terra di Ade. Circe fece spirare un vento favorevole che li spinse verso il fiume Oceano e gli sperduti limiti del mondo, dove i cimmeri, avvolti nella nebbia, cittadini del perpetuo crepuscolo, vivono senza godere della luce del sole. Quando avvistarono il bosco di Persefone, Odisseo sbarcò e fece esattamente ciò che Circe gli aveva consigliato di fare. La prima ombra ad apparire sul limite della fossa fu quella di Elpenore, uno dei marinai di Odisseo, che pochi giorni prima, addormentatosi ubriaco sul tetto del palazzo di Circe, ne era rotolato giù e si era ucciso. Odisseo, che, lasciata Ea in gran fretta, s'era accorto troppo tardi dell'assenza di Elpenore, gli promise ora solenni esequie. «Se penso che tu sei giunto qui a piedi più rapidamente di noi con la nave», esclamò. Ma non permise che Elpenore bevesse un solo sorso di sangue, sordo alle sue imploranti suppliche. Una frotta d'ombre si riunì frattanto attorno alla fossa, uomini e donne d'ogni età, compresa la madre di Odisseo, Anticlea. Ma egli non volle che alcuno bevesse prima di Tiresia. E Tiresia infine apparve, beve avidamente il sangue e ammonì Odisseo a tenere sotto stretto controllo i suoi uomini non appena avessero avvistato la Sicilia, perché non fossero tentati di rubare la mandria del titano solare Iperione. In Itaca poi egli doveva attendersi ogni sorta di guai, e benché potesse sperare di vendicarsi dei mascalzoni che stavano dilapidando i suoi beni nell'isola natia, i suoi viaggi non sarebbero finiti. Doveva prendere un remo e caricarselo su una spalla e camminare nell'entroterra finché raggiungesse una regione dove gli uomini non mangiavano carne salata e ignoravano le cose del mare, tanto da scambiare il remo per un ventilabro. Sacrificando allora a Posidone, avrebbe potuto ritornare a Itaca e vivere sereno fino a tarda età, ma la morte gli sarebbe giunta dal mare. Ringraziato Tiresia e promessogli il sangue di un'altra pecora nera al suo ritorno in patria, Odisseo permise a sua madre di placare la sete. Essa gli diede notizie di Itaca, ma tacque discretamente sul conto dei pretendenti di Penelope. Quando infine si congedò, le ombre di molte regine e principesse si strinsero attorno alla fossa per lambire il sangue. Odisseo fu onorato di conoscere personaggi famosi come Antiope, Giocasta, Cloride, Pero, Leda, Ifimedea, Fedra, Procri, Arianna, Mera, Climene ed Erifile. Si intrattenne poi con un gruppo di vecchi compagni, Agamennone, che gli consigliò di sbarcare a Itaca in segreto, Achille, che si rallegrò all'udire notizie delle imprese di Neottolemo, e il grande Aiace, che ancora gli serbava rancore e si allontanò cupo in volto. Odisseo vide inoltre Minosse, che giudicava le ombre, Orione intento a cacciare, Tantalo e Sisifo torturati ed Eracle, o meglio l'ombra di Eracle, poiché Eracle stesso banchettava tra gli dei immortali, che lo commiserò per le sue fatiche, paragonandole alle proprie. Odisseo ritornò dunque a Eea, dove diede sepoltura al corpo di Elpenore e piantò un remo sul tumulo in suo ricordo. Circe lo accolse sorridendo. «Quale ardire hai mostrato, visitando la terra di Ade», disse. «Una sola morte spetta alla maggior parte degli uomini, ma tu ora ne avrai due». Lo avvertì poi che sarebbe passato presso l'isola delle Sirene, le cui belle voci incantano i marinai. Codeste, figlie di Achelo o di Forci e della musa Tersicore Osterope, figlia di Portaone, avevano volti di fanciulle ma zampe e piume d'uccello, e a proposito di questa loro caratteristica si raccontano varie storie. A esempio, che esse stavano giocando con Core quando Ade la rapì e che Demetra, irata, perché non erano accorsi in aiuto di sua figlia, fece spuntare penne sui loro corpi e ordinò «Andate a cercare Core in tutto il mondo», oppure che Afrodite le trasformò in uccelli perché orgogliosamente rifiutavano di sacrificare la loro verginità a dei o a uomini mortali. Non avevano più la possibilità di volare dal giorno in cui le muse le avevano sconfitte in una gara di canto, strappando poi loro le ali per farsene delle corone. Ora sedevano cantando in un prato, tra le ossa sbiancate dei marinai che avevano trascinato alla morte. «Tu racconcera le orecchie dei tuoi uomini», consigliò Circe a Odisseo, «e se davvero sei curioso di udire i canti delle sirene, fatti legare dai marinai all'albero maestro e inducili a giurare di non scioglierti per quanto tu li supplichi o li minacci». Quando Odisseo si congedò da lei, Circe lo mise in guardia contro altri pericoli che lo attendevano e infine egli salpò, di nuovo favorito dal vento. Non appena la nave si avvicinò all'isola delle sirene, Odisseo seguì il consiglio di Circe. Le sirene cantavano in modo così suadente, promettendogli la possibilità di prevedere tutto ciò che sarebbe accaduto sulla terra, che Odisseo minacciò di morte i marinai se non lo avessero liberato. Ma fedeli alla consegna, essi invece rafforzarono le corde che assicuravano Odisseo all'albero maestro. Così la nave doppiò l'isola senza che nessuno scendesse a terra e le sirene, per la rabbia, si uccisero. Taluni credono che vi fossero soltanto due sirene, altri che ve ne fossero tre, e cioè Partenope, Leucosia e Ligea, oppure Pisinoe, Aglaope e Telsepea, oppure Aglaofone, Telsiope e Molpa, altri ancora ne citano quattro, Telete, Redna, Telsiope e Molpa. Odisseo doveva poi passare tra due rocce, l'una abitata da Scilla e l'altra da Cariddi, due mostri orrendi. Cariddi, figlia di Posidone della madre terra, era una donna vorace che Zeus scagliò in mare con un fulmine e che ora usava bere enormi quantità d'acqua marina per poi risputarle in mare. Scilla, un tempo la bellissima figlia di Ecate, Crateide e di Forci o Forbante, oppure di Echidna e di Tifone o Tritone o Tirrenio, era stata trasformata in un mostro di forma canina con sei orrende teste e 12 zampe. Ciò avvenne o per volontà di Circe, gelosa dell'amore che Glauco nutriva per Scilla, o per volontà di Anfitrite, egualmente gelosa dell'amore di Posidone. Scilla, anziché abbaiare a gran voce, guaiva come un cucciolo appena nato. Cercando di sfuggire a Cariddi, Odisseo si avvicinò troppo a Scilla che, sporgendosi al di sopra della murata, agguantò sei dei più abili marinai, uno in ciascuna delle sue bocche, e ritiratasi sulle rocce li divorò con comodo. Gli infelici gridavano e invocavano aiuto, ma Odisseo non osò andare a salvarli e proseguì. Odisseo regolò la rotta della nave in modo da evitare le rocce vaganti o stritolatrici, tra le quali soltanto Largo era riuscita a passare. Egli non sapeva che tali rocce erano ormai radicate al fondo marino. Ben presto fu avvistata la costa della Sicilia, dove Iperione, il titano solare che taluni chiamano Elio, faceva pascolare sette splendide mandrie di 50 capi ciascuna e alcune greggi di pecore. Odisseo fece giurare ai suoi uomini che si sarebbero accontentati delle provviste fornite da Circe senza tentare di rubare il bestiame di Iperione. Poi sbarcarono, ma il vento del sud soffiò per tre giorni. Le provviste stavano per esaurirsi e benché gli uomini si affannassero a cacciare e a pescare, non ebbero molto successo. Infine Euriloco, morso dalla fame, prese in disparte i camerati e li indusse a rubare qualche capo di bestiame. In compenso, disse, avrebbero eretto a Iperione uno splendido tempio non appena ritornati a Itaca. Attesero dunque che Odisseo si fosse addormentato, si impadronirono di alcune vacche, le sgozzarono, offrirono le ossa della coscia e il grasso agli dei e arrostirono tanta carne quanta ne sarebbe bastata per banchettare 6 giorni. Odisseo, destatosi, inorridì al vedere l'accaduto, e inorridì anche Iperione quando ebbe notizia del furto da Lampezia, sua figlia e capo Mandreana. Si lagnò con Zeus, il quale, visto che la nave di Odisseo aveva ripreso il mare, scatenò un'improvvisa tempesta. Il vento dell'ovest schiantò l'albero maestro e poi cadde una folgore incoperta. La nave si inabissò e tutti annegarono, fuorché Odisseo. Egli riuscì a legare l'albero alla chiglia servendosi della rizza di cuoio e montò a cavalcioni su quell'improvvisata zattera. Ma ecco levarsi il vento del sud e spingerlo verso i gorghi di Cariddi. Aggrappato ai rami di un fico che sorgeva sulla riva, Odisseo attese che il mostro, ingoiata la zattera, la vomitasse di nuovo. Poi vi risalì e si allontanò remando con le mani. Dopo 9 giorni giunse all'isola di Ogigia, dove viveva Calipso, figlia di Teti e di Oceano, o Nereo o Atrante. Boschi di ontani, pioppi bianchi e cipressi ombreggiavano la grotta di Calipso e sui loro rami albergavano gufi, falconi, corvi marini. Una vite si attorcigliava attorno alle rocce dell'ingresso. Prezzemolo e giaggioli crescevano nell'orto lì accanto, che era irrigato da 4 ruscelli. La bellissima Calipso confortò Odisseo, che giaceva stremato sulla spiaggia, e gli offrì cibo e bevande e il suo morbido letto. «Se rimarrai con me», gli disse, «godrai dell'immortalità e di perenne giovinezza». Secondo taluni fu Calipso e non Circe che generò a Odisseo, il figlio latino, oltre ai gemelli Nausito e Nausino. Calipso trattenne Odisseo a Ogigia per 7 anni, o forse furono soltanto 5, e cercò di fargli dimenticare Itaca. Ma ben presto egli si stancò delle sue carezze e sedeva per ore sulla spiaggia fissando malinconico il mare. Infine, approfittando dell'assenza di Posidone, Zeus inviò Ermete a Calipso con l'ordine che essa lasciasse partire Odisseo. Calipso non poté far altro che obbedire. Disse dunque a Odisseo di costruirsi una zattera e gli fornì le provviste, un sacco di grano, otri di vino e d'acqua e carne disseccata. Benché Odisseo sospettasse un inganno, Calipso giurò sullo Stige che non aveva intenzione di tradirlo e gli consegnò ascia, scure, succhielli, insomma, tutti gli attrezzi necessari. Odisseo non aveva bisogno di incoraggiamenti. Costruì la zattera con tronchi d'albero legati gli uni agli altri, la spinse in mare su dei rulli, si congedò da Calipso con un bacio e partì col vento in poppa. Posidone si era recato a visitare i suoi fedeli amici etiopi e mentre tornava a casa galoppando sulle onde con il cocchio, vide all'improvviso la zattera. Subito Odisseo fu gettato in mare da un'onda violenta. Le ricche vesti che indossava lo trascinarono a fondo con il loro peso e già gli pareva che i suoi polmoni fossero lì lì per scoppiare. Ma poiché era valente nuotatore, riuscì a sgusciare fuori dalle vesti e, risalito in superficie, a raggiungere nuovamente la zattera. La pietosa dea Leucotea, che un tempo era stata Ino, moglie di Atamante, si posò allora sulla zattera con l'aspetto di un gabbiano. Portava nel becco un velo e disse a Odisseo di avvolgerselo attorno alle reni se mai fosse caduto ancora in mare. Il velo l'avrebbe salvato. Così essa promise. Odisseo parve esitare sospettoso, ma quando un'altra onda spazzò la zattera, si cinse del velo e cominciò a nuotare. Poiché Posidone era ormai ritornato al suo palazzo sottomarino, Atena osò suscitare un vento che placava le onde dinanzi a Odisseo e 2 giorni dopo egli approdava, esausto, all'isola di Drepane, allora abitata dai Feaci. Giacque all'ombra di 2 arbusti presso un ruscello, si ammucchiò foglie secche sul corpo e cadde in un sonno profondo. Il mattino seguente la bella Nausicaa, figlia di re Alcino e della regina Areta, la coppia reale che già si era dimostrata tanto cortese con Giasone e Medea, venne a lavare i panni nel ruscello. Terminato il lavoro, giocò a palla con le sue compagne. La palla cadde nell'acqua, le fanciulle lanciarono un grido e Odisseo si destò. non aveva vesti addosso e, coprendo la sua nudità con un fronzuto ramo di olivo, si fece avanti e pronunziò parole così dolci che Nausicaa lo prese sotto la sua protezione e lo condusse al palazzo. Colà Alcino offrì a Odisseo doni ospitali e, udito il racconto delle sue avventure, lo rimandò a Itaca con una bella nave. I marinai feaci conoscevano bene l'isola. Gettarono l'ancora nel porto di Forcide e, per non disturbare il sonno di Odisseo, lo portarono a terra con cautela e lo deposero sulla spiaggia, ammucchiando i doni di Alcino presso un albero non lontano. Posidone tuttavia era tanto irato con i feaci per le cortesie usate a Odisseo che durante il viaggio di ritorno colpì la loro nave col piatto della mano e la trasformò in pietra con l'equipaggio e tutto. Alcino tosto sacrificò 12 buoi a Posidone, che minacciava ora di distruggere il porto dei feaci facendo precipitare in mare una montagna. «Impareremo dunque a non essere più tanto ospitali in futuro», disse Alcino ad Areta, con profonda amarezza. Apollodoro dice che, per taluni, l'Odissea sarebbe il racconto di un viaggio attorno alla Sicilia. Samuel Butler giunse per altre vie alla medesima conclusione e vide in Nausicaa l'autoritratto dell'autrice, una giovane e geniale nobildonna siciliana del distretto di Erice. Nel suo Authors of the Odyssey, Butler sostiene che l'intima conoscenza della vita familiare nelle corti del tempo, rivelata dall'Odissea, contrasta con le rozze abitudini di pastori o marinai ed è prova della preponderanza di interessi femminili. Butler dice poi che soltanto una donna avrebbe descritto Odisseo a colloquio con le donne famose del passato, prima che con uomini altrettanto famosi, e gli avrebbe messo sulle labbra, al momento del congedo dai feaci, l'augurio che essi potessero sempre rendere felici le mogli e i figlioli, anziché rovesciare la frase come era logico attendersi. E soltanto una donna avrebbe potuto immaginare Elena che accarezza i fianchi del cavallo di legno e si prende gioco dei greci celati all'interno. La tesi di Butler è convincente, il tono umoristico, ingenuo, brillante e spiritoso dell'Odissea è quasi certamente da attribuirsi a una donna. Ma Nausicaa ha fuso, localizzandole nella sua isola natale, due diverse leggende già esistenti, e cioè il semistorico ritorno di Odisseo da Troia e le allegoriche avventure di un altro eroe che chiameremo Ulisse, il quale, come il nonno di Odisseo, Sisifo, non volle morire quando giunse al termine del suo regno. La leggenda di Odisseo comprendeva senza dubbio lo sbarco a Ismaro, la tempesta che spinse la flotta a sud-ovest, il ritorno lungo le coste della Sicilia e dell'Italia, il naufragio a Drepane, Corfù, e la vendetta sui pretendenti. Tutti o quasi tutti gli altri episodi appartengono alla leggenda di Ulisse, i lotofagi, la caverna dei ciclopi, il porto di Telepilo, Eea, il bosco di Persefone, l'isola delle Sirene, Ogigia, Scilla e Cariddi, gli abissi marini e persino il porto di Forci sono altrettante metafore che alludono alla morte cui Ulisse sfuggì. Aggiungiamo a queste anche l'uccisione della vecchia Ecuba, altrimenti nota come Mera, o l'orsa minore, cui avrebbe dovuto essere sacrificato il successore di Icario. Per Scilace e per Erodoto, i lotofagi abitavano nella Libia occidentale presso la città di Gindane, che aveva un ordinamento matriarcale. Il loro nutrimento principale era la saporita e nutriente cordia mixa, un frutto dolce e appiccicoso che cresceva a grappoli e che, schiacciato e mescolato a grano, servì a nutrire un esercito intero in marcia contro Cartagine. La cordia mixa è stata confusa con il Rhamnus zizifus, una specie di mela selvatica che dà un sidro molto aspro e ha un nocciolo invece dei semi. La perdita di memoria provocata dal loto è stata spiegata da taluni come un effetto di questo sidro bevuto in grande quantità, ma mangiare il loto non equivale a berlo. E poiché il re sacro, accettando di mordere la mela offertagli dalla Belle Dame Sans Merci, accettava implicitamente di morire per mano sua, il cauto Ulisse, ben sapendo che pallide ombre di re e guerrieri languivano nell'oltretomba per colpa di una mela, avrebbe rifiutato di assaggiare il Rhamnus. In una ballata scozzese che si rifà al culto delle streghe, Thomas the Rhymer viene ammonito a non assaggiare le mele del paradiso che gli verranno offerte dalla regina di Elfheim. La caverna dei ciclopi è evidentemente un luogo di morte. Il gruppo guidato da Odisseo si componeva di 13 uomini, il numero dei mesi di regno concessi al primitivo re sacro. Il monocolo Polifemo, cui a volte si attribuisce una strega come madre, è un personaggio che appare spesso nei racconti popolari europei e caucasici. Ma i 12 compagni dell'eroe figurano soltanto nell'Odissea. Indipendentemente dal significato che la leggenda caucasica possa avere avuto, A.B. Cook nel suo Zeus dimostra che l'occhio del ciclope era in Grecia un emblema solare. Tuttavia, quando Odisseo accecò Polifemo per non essere divorato con gli altri suoi compagni, il sole continuò a splendere. Soltanto l'occhio di Baal, o Moloch, o Tesuppo, o Polifemo, famoso, che esigeva sacrifici umani, era stato spento, e il re trionfante si impadronì delle sue greggi. Poiché l'Odissea ha conservato l'atmosfera pastorale della favola caucasica con il suo orco monocolo, può darsi che questo fosse stato confuso con uno dei ciclopi preellenici, fabbri famosi, la cui associazione aveva affiliati anche in Sicilia e che forse avevano un occhio tatuato al centro della fronte come simbolo del clan. Telepilo, che significa la lontana porta dell'inferno, giace all'estremo nord dell'Europa, nella terra del sole di mezzanotte, dove i pastori che rientrano danno la voce a quelli che debbono uscire. A questa fredda regione appartengono le rocce vaganti, ossia gli iceberg, e anche i cimmeri, che a giugno possono godere del sole a mezzanotte, ma in inverno hanno il buio a mezzogiorno. Fu forse a Telepilo che Eracle combatté contro Ade. In tal caso la lotta dovette svolgersi durante la visita dell'eroe agli Iperborei. I lestrigoni, di asperrima razza, erano forse i norvegesi, i mercanti d'ambra che si spingevano spesso a Bornholm e sulle coste meridionali del Baltico descrivevano con orrore i barbari costumi di questi navigatori dei fiordi. Ea, che geme, è la tipica isola della morte dove la dea della morte canta e lavora al telaio. Secondo la leggenda degli Argonauti, quest'isola si trova nell'Adriatico settentrionale e forse è Lussino presso Pola. Circe significa falco ed essa aveva un cimitero nella Colchide, ombreggiato da salici, alberi sacri e a Ecate. Gli uomini trasformati in animali fanno pensare alla teoria della metempsicosi, ma il porco è particolarmente sacro alla dea della morte ed essa nutre i compagni di Ulisse con le corniole di Crono, il rosso frutto dei morti. È dunque probabile che si tratti soltanto di ombre. I grammatici non hanno potuto stabilire che cosa fosse l'erba moli di Ermete. Zetze dice che gli speziali la chiamano ruta selvatica. Ma la descrizione che ce ne dà l'Odissea fa pensare piuttosto al ciclamino selvatico, che è un fiore raro, dai petali bianchi, dal bulbo scuro e dal profumo intenso. In seguito gli scrittori classici chiamarono moli una specie di aglio dai fiori gialli che si supponeva crescesse, come la cipolla, il pancrazio e il vero aglio, quando la luna era in fase calante e servisse dunque come amuleto contro l'influsso nefasto di Ecate. Marduk, l'eroe babilonese, annusò un'erba divina come antidoto contro l'odore pestilenziale della dea del mare Tiamat, ma l'epopea non ne descrive la specie. Il bosco di neri pioppi sacri a Persefone sorge presso il Tartaro, posto nell'estremo occidente, e Odisseo non discese nel Tartaro, come Eracle, Enea e Dante, benché Circe presuma che egli l'abbia fatto. Fregetonte, Cocito e Acheronte scorrono davvero nell'oltretomba, ma in altri casi l'autrice dell'Odissea rivela scarse cognizioni geografiche e cita a caso i venti dell'ovest, del sud e del nord. Odisseo sarebbe stato spinto a Ogigia e al bosco di Persefone dal vento dell'est e a Telepilo e a Eea dal vento del sud. Tuttavia l'autrice non ha torto quando dice che Odisseo si diresse a est per raggiungere Eea, poiché Eea era la terra dell'alba, dove gli eroi Orione e Titono avevano incontrato la morte. L'ingresso delle tombe a tumulo Micenee è rivolto a Oriente e Circe, essendo figlia di Elio, aveva Eos, Alba, come zia. Le sirene erano scolpite sui monumenti funebri come angeli che intonavano lamenti, ma si attribuivano a esse anche mire erotiche sugli eroi defunti, e poiché si credeva che l'anima volasse via sotto forma di uccello, venivano descritte come le arpie a guisa di uccelli pronti ad agguantare la preda. Benché figlie di forci, ossia dell'inferno, e dunque cugine delle arpie, esse non vivevano nel sottosuolo o in caverne, ma in una verde isola sepolcrale simile a Eea o a Ogigia, e si dimostravano specialmente pericolose nella ferma bonaccia del mezzogiorno, l'ora dei colpi di sole e degli incubi della siesta. Erano dette anche figlie di Acheloo, e la loro isola dunque fu forse una delle Echinadi alla foce del fiume Acheloo. Per i siciliani invece tale isola si trovava presso il capo Peloro, ora Faro, in Sicilia. Per i latini le sirene abitavano le isole dette appunto delle sirene, presso Napoli o a Capri. Ogigia è il nome di un'altra isola funebre e pare avesse il medesimo significato di oceano, mentre Ogen era la forma intermedia. Calipso, nascosta o che nasconde, è un'altra dea della morte, come dimostra la sua grotta circondata da ontani, sacri al dio della morte Crono o Bran, tra i cui rami albergano corvi di mare o gracchie, gufi e falchi. Il prezzemolo era simbolo di lutto e l'iris un fiore della morte. Calipso promise a Odisseo l'eterna giovinezza, ma egli desiderava la vita, non l'immortalità eroica. Scilla, colei che dilania, figlia di Forci o Ecate, e Cariddi, colei che risucchia, sono appellativi della dea del mare, distruttrice. Codesti nomi finirono con l'essere attribuiti alle rocce che delimitano lo stretto di Messina, ma devono essere intesi in senso più largo. Leucotea, nella sua Epifania di Gabbiano, era la dea del mare che piange sui relitti di un naufragio. Poiché la dea del mare cretese era rappresentata anche come Polipo e Scilla strappò i marinai dalla nave di Odisseo, può darsi che i cretesi, che si spingevano per commerciare fino all'India, conoscessero varietà tropicali di polipi giganteschi, cui si attribuiva la pericolosa abitudine di strappare marinai dalla coperta delle navi. La descrizione dei guaiti di Scilla è mitologicamente molto più importante di quanto possa apparire a prima vista. Tale guaito la identifica infatti con i bianchi segugi della morte, dalle orecchie rosse, i Gabriel Ratches della leggenda inglese che inseguono le anime dei dannati. Essi erano gli antichi cani da caccia egiziani, sacri ad Anubi, e che ancora si allevano nell'isola di Iviza. Quando inseguono la preda, emettono un gemito interrogativo, simile al guaito dei cuccioli o al grido della bernacla che emigra. Soltanto due episodi, verificatisi tra la scaramuccia di Odisseo con i Ciconi e il suo arrivo alla terra dei Feaci, vale a dire la visita di Odisseo stesso all'isola di Eolo e il furto del bestiame di Iperione, pare non riguardino il rifiuto alla morte nove volte ripetuto. Tuttavia, i venti custoditi da Eolo erano gli spiriti dei morti e il bestiame di Iperione si identifica con la mandria rubata da Eracle durante la decima fatica, probabilmente per scendere all'inferno. Che Odisseo dichiarasse di non aver partecipato al furto ha poca importanza. Nemmeno suo nonno Autolico ammise di aver rubato la mandria del sole. Odisseo, il cui nome che significa iroso si riferisce al volto rosso del re sacro, è chiamato Ulisse in latino, parola formata probabilmente da Oulos, ferita, e Ischea, coscia, con allusione alla cicatrice prodotta da una zanna di cinghiale e che la vecchia nutrice riconobbe quando egli tornò a Itaca. I re sacri morivano spesso per una ferita del genere, ma pare che Odisseo fosse riuscito a sopravvivere.